Allora, questa è la seconda lezione di comunicazione multimediale del 2001. Allora, abbiamo introdotto la volta scorsa, insomma, più o meno i temi generali di questo corso. Allora, prima di affrontare il tema più specifico del corso, che è quello dei rapporti tra l'immagine, tra la parola e l'immagine, credo che sia opportuno fermarsi almeno questa volta, forse anche la prossima, non so se lo vediamo, sulla questione del linguaggio in generale. Cioè, cercare di capire che cos'è il linguaggio, adesso che cos'è è una domanda impegnativa e forse sbagliata. Che cosa è nel senso di comprendere l'essenza o la sostanza o quello che il linguaggio è in assoluto. Allora è chiaro che il linguaggio è qualche cosa, cioè è un fenomeno inerente a chi, a che cosa? A una particolare specie animale, Homo sapiens. Sfortunatamente per alcuni, sfortunatamente per altri, è molto difficile fare dei paragoni tra il linguaggio degli esseri umani e altre, non so che termine usare, usiamo il termine generico di performance, e altre performance di altri animali, perché obiettivamente il linguaggio è un fenomeno unico nel panorama animale degli animali che vivono sul pianeta Terra. Data questa unicità del linguaggio, che è un dato di fatto, indubbio, su questo non si può discutere, cioè nessuno può dire no, c'è qualcuno che si può discutere sulla somiglianza, similarità, eccetera, eccetera, un'altra cosa. Ma insomma, però fatto sta che non c'è nessun altro animale che parla, cioè, questa è una cosa banale, giusto? Allora, questo ci crea delle difficoltà se vogliamo cercare di dare una descrizione, virgolette, naturalistica del linguaggio, perché non abbiamo elementi di paragone con altri fenomeni animali. Possiamo dire, se si può congetturare, adesso vedremo, che ci sia qualche cosa di simile, è su questo problema che si innesta l'interrogativo di che cos'è il linguaggio, perché se noi sapessimo positivamente, chiaramente, inequivocabilmente che cos'è il linguaggio, potremmo dire, va bene, allora il linguaggio è qualche cosa che c'è negli esseri umani, cioè nella specie Homo sapiens, che è fatta così, così e così, non c'è in altri animali, ma in altre specie animali, in particolare in quelle più simili all'essere umano, cioè che sono poi le scimmie, insomma, che sono gli animali più simili a noi che ci siano, noi siamo più simili a loro, facciamo parte della stessa famiglia. Allora, nelle scimmie c'è quest'altra cosa che è più o meno simile, eccetera, eccetera. Allora, però questo implica allora rispondere in qualche maniera alla domanda che cos'è il linguaggio. Però da un altro punto di vista, tentare di rispondere esaustivamente, esaurientemente, totalmente, globalmente alla domanda che cos'è il linguaggio ci caccia in una quantità di altri problemi non vengono in ballo direttamente, ma vengono fuori non appena si approfondisce un po' questa domanda. E allora, ed è per questo che ci viene una certa cautela dal dire forse la domanda più giusta non è che cos'è il linguaggio dal punto di vista che cos'è l'essenza del linguaggio, anche perché faccio un paragone. Allora, se noi consideriamo il linguaggio una delle performance caratteristiche di una certa specie animale, Homo sapiens, potremmo porci analogamente altri interrogativi simili per altre specie animali, per esempio, allora, che cos'è l'agilità per una gazzella? Che cos'è la velocità per un leone? No? Cioè, e naturalmente non sono domande totalmente fuori dal mondo, però sono cose che o hanno una pura risposta tecnica, cioè la velocità del leone, io basta che descrivo il sistema muscolare dei muscoli, delle zampe del leone, li studio, vedo come si muovono, eccetera, eccetera, faccio qualche bel filmatino, qualche analisi micrometrica, insomma, fotogramma per fotogramma dei movimenti del leone, scopro come scoprì Muybridge alla fine dell'Ottocento, che quando fece una roba del genere per il cavallo, no? Prima che ci fosse il cinema, piazzò queste macchine fotografiche, uno dice, aveva, sapete tutti la storia, come e scoprì cosa che nessuno aveva mai saputo, che nel movimento del cavallo c'è un particolare momento, qualche istante, forse meno di un secondo, in cui il cavallo ha tutte e quattro le zampe sollevate da terra quando galoppa nel passo dell'animale, del cavallo che mascolo. Si potrebbe scoprire, allora, o do una risposta di questo tipo, allora va bene, cioè, diciamo, se alla, come dire, domanda che cos'è il linguaggio, cerco di dare una risposta in termini fisiologici, basta che studio il sistema fonatorio degli esseri umani, vado lì, guardo com'è la nostra cavità orale, cosa c'ha di simile, cosa ha di diverso da quello di altri animali, scopro che ci sono molte cose simili e alcune cose diverse che in realtà sono quelle che ci permettono di parlare, poi vedremo quali, eccetera, e do una risposta di tipo descrittivo fisiologico. Perché non ci soddisfa una risposta del genere alla domanda che cos'è il linguaggio? Per una ragione semplice, perché, insomma, qui viene fuori la questione del, insomma, significato, che ovviamente è un'altra bella questione. Perché mentre una qualunque altra performance di qualunque animale non solo è descrivibile in termini meccanici, fisiologici, biologici, cioè se metto tutto insieme riesco a scrivere, ma c'è una, come dire, domanda implicita, ma che ha una risposta del tutto banale nel caso di altre specie animali, ed è: a che cosa serve? A cosa serve al leone correre così rapido, o a cosa serve alla gazzella correre così rapida? E ovviamente è chiaro che la risposta in quel caso è, adesso non è che ci sembra semplice a noi, è semplice davvero, cioè il leone vuole mangiarsi la gazzella ovviamente non vuole essere mangiata dal leone, quindi la corsa, la loro reciproca velocità è quella della gazzella, sappiamo che è superiore a quella del leone, quindi nessuna gazzella può essere mai raggiunta da un leone, quando è in condizioni normali, cioè, ma allora cosa mangia il leone? Non mangia le gazzelle sane, nessuna gazzella sana, a meno che non sia cretina, è mai finito sulle zampe di un leone. Il leone si mangia le gazzelle malate, quelle zoppe, quelle distratte, quelle come me quando mi pigliai la prima e unica manganellata della mia vita, che avevo 18 anni, era perché ero distratto, non perché ero successo, perché non lo guardassi, no, vado lì, corri, andavo la manganellata. Uno, poi dopodiché, dopo la prima, ovviamente non si, come dire, distrae più. Nel caso mio è andata bene, perché la manganellata non mi ha leso alcun organo vitale. Ovviamente la gazzella che viene azzannata dal leone e però magari riesce a scappare per quella volta, morirà la volta dopo, perché il leone l'ha, diciamo, azzoppata, e quindi la volta dopo questa zoppa crede di correre, ovviamente con tre zampe che non ce la fa. Allora, nel caso di questi animali è facile, no? Dice, la corsa serve a quello. Allora, ecco che salta fuori la seconda domanda, forse più pertinente, no? Per quanto riguarda il linguaggio. Ma a cosa ci serve a noi il linguaggio? Uno si chiede, sono tante altre domande, a cosa ci serve il pollice opponibile? Come dire, più facile, no? Il pollice opponibile ci serve per afferrare gli oggetti. Se non avessimo il pollice opponibile, sarebbe difficile, senza il pollice opponibile, sì, si può, ma insomma, col pollice opponibile le robe si pigliano la matita si tiene, se no la polizia opponibile, già sollevare una matita da un tavolo è dura. Alcune cose sono semplici, banali, altre robe, obiettivamente, il linguaggio è una cosa più complicata, cioè come complicata, però da che punto di vista? Intanto cominciare dal punto di vista della funzione, a che cosa serve? Allora, però, anche qui, allora va bene, non ci domandiamo più che cos'è il linguaggio, domanda astratta, troppo generale, tipo metafisico, eccetera, chiediamoci a che cosa serve. E a che cosa serve, però, anche lì ci abbiamo, cioè non è una domanda così semplice, non pensate che sto, come dire, complicando le cose più di quello che possono essere complicate, che di fatto sono complicate, cioè, d'altra parte, se vogliamo cercare di costruire un discorso che sia, che abbia più o meno qualche, anche qualche piccolo grado di stabilità, cioè che non sia basato sulle sabbie mobili, bisogna stare attenti, cioè bisogna indagare pezzo per pezzo, cioè, ma cosa è, se no uno parla vanvera, gente che parla vanvera, ce n'è tanta in giro per il mondo, dice ci mettiamo anche noi, beh, insomma, magari noi cerchiamo di parlare meno vanvera, almeno io parlo per me. Quindi anche la domanda a cosa serve il linguaggio è una domanda complicata, perché? Allora qui bisogna probabilmente, faccio un altro passo indietro, è complicatissimo prendere appunti oggi, non lo so, però se riuscite a distinguere i livelli più o meno ci stiamo. Il passo indietro qual è? È che bisogna probabilmente, non si può, come anche nella geometria, sapete che è così, non si può dimostrare un teorema geometrico se non c'è qualche altra affermazione geometrica che non viene dimostrata, che si chiama assioma o postulato. Da qualcosa bisogna partire. Allora, adesso io vi dico da cosa parto io, non vuol dire che sia poi giusto, voi potete partire da qualsiasi altra cosa, però credo che sia giusto esplicitare da che cosa parto io per poter rispondere ad una domanda tipo che cosa è una particolare caratteristica di una specie vivente su questo pianeta, di un animale, di una pianta, eccetera, o rispondere all'altra domanda correlata a che cosa serve, devo esplicitare due, come dire, premesse. Prima premessa. La prima premessa è che se non c'è questa premessa è chiaro che tutto quello che dico è può essere contestato. Però se uno lo sa da quale premessa parte. Allora, la prima premessa è questa. Io parto da un punto di vista monistico sugli esseri umani, da un punto di vista unitario e non, diciamo, dualistico. Non c'è nessun modo di dimostrare che è più giusto il monismo che non il dualismo, se non il famosissimo e stracitato rasoio di Occam. Dice, ma che è il rasoio di Occam? È un principio metodologico enunciato più o meno da un filosofo medievale della tarda scolastica, Guglielmo di Occam, il quale un giorno scrisse, si trova nella sua, Entia non sunt multiplicanda preter necessitatem, latino, traduciamo in italiano. Non bisogna moltiplicare gli esseri al di là di quanto sia necessario. Detto in altri termini, le spiegazioni migliori sono quelle che partono dal minor numero di ipotesi possibili. Se per spiegare una cosa io devo aggiungere, dire no, ma per questo succede perché c'è questa cosa in più, per esempio, non so, se io ho una ipotesi meccanica, eccetera, e dico tutte le cose si muovono perché c'è una forza che le spinge, eccetera, eccetera. Dopodiché mi chiedo, ma perché si muovono, ma perché i pianeti si muovono su orbite circolari mentre se spingo un oggetto questo si muove in linea retta? Allora, se io riesco a spiegare perché i pianeti si muovono in orbite circolari intorno al Sole, con, lo, con lo stesso sistema di principi con il quale spiego perché i corpi spingendoli si muovono in linea retta, ho soddisfatto il principio di Occam, cioè non ho moltiplicato gli enti a della quantità esatta. Se invece io, per spiegare il moto circolare del Sole, dei pianeti intorno alle stelle, introduco delle ipotesi in più di quelle della normale meccanica, a questo punto diciamo che potrebbe entrare in gioco l'errore di Occam, cioè Occam si potrebbe chiedere, Occam e tutte le persone intere, perché scusa, ma c'era proprio bisogno di aggiungere queste ipotesi in più per spiegarci perché. Allora, se io invece riesco a trovare una spiegazione che fa a meno di questo, allora questa ipotesi in più, ne dico una stupida, potrebbe essere, c'è un vecchietto con la barba su di una nuvola che dà un calcio ai pianeti o che dà un calcio al sole e li fa muovere in circolo. Questa è una cosa stupida, è chiaro, nessuno dirà mai così, ma supponiamo che fosse questo. Se poi invece arriva, e questo è la come spiegazione del filosofo A, chiamiamolo Sant'Agostino o San Tommaso. Se invece arriva il filosofo B e mi dice no, guarda che il moto dei pianeti intorno al Sole si spiega perché c'è una legge generale che dice che due masse si attraggono, bla bla, ed è la stessa legge che spiega la spinta dei corpi e le traiettorie lineari, e io riesco attraverso dei calcoli a spiegare il moto circolare dei pianeti intorno al Sole con le stesse ragioni per cui ho spiegato il moto rettilineo dei corpi spinti, allora arriva il signor Occam e mi dice scusa, ma c'è ragione B, tu che sei A, che hai detto che c'era il vecchietto che mi dà, il tuo vecchietto è totalmente inutile, non serve a nulla. Non lo devi introdurre, perché è una roba in più che ha introdotto. Quindi questo è il ragionamento di Occam. Allora, l'unico argomento possibile a favore di un punto di vista monistico su uno dualistico, ovviamente, è il ragionamento di Occam. Se io riesco, o ipotizzo di poter spiegare tutto sulla base semplicemente di un insieme di ipotesi che spiegano tutti i fenomeni, che spiegano o che riescono a descrivere in qualche modo accettabile tutti i fenomeni, della vita sulla Terra, è inutile che introduco per alcune forme di vita particolari, per esempio l'uomo, delle ipotesi in più, ulteriori rispetto a quelle che valgono per altri animali. Secondo il ragionamento di Occam ha più ragione, cioè è preferibile colui che tenta di spiegare o riesce a spiegare i fenomeni di tutte le forme di vita, ivi compresi quelli più controversi, è chiaro che sto parlando del linguaggio, è chiaro, no? Piuttosto che l'ipotesi di chi per introdurre il linguaggio, per spiegare il linguaggio o altre caratteristiche specifiche degli esseri umani, deve introdurre un'ipotesi in più. Adesso qual è questa ipotesi in più? Storicamente la cosa si è, verificata, è il principio dualistico che è stato introdotto per la prima volta in termini organici nella storia della filosofia da Platone, prevede, e poi è stato riformulato in maniera più corretta da Cartesio 2000 anni dopo in pratica, ma insomma però è sempre la stessa minestra, insomma, no? Questo principio dualistico prevede l'esistenza di due sostanze differenti, irriducibili l'una all'altra, per spiegare quello che succede nel mondo. Usiamo la terminologia cartesiana. Una è la materia, che Cartesio chiamò res extensa, la cosa che si estende, la caratteristica della materia è quella di occupare dello spazio, quindi di estendersi. E l'altra, che invece Cartesio chiamò la res cogitans, la cosa che pensa. Cartesio, come anche Platone, anche se in maniera diversa, era convinto che la cosa che pensa non sia riducibile alla cosa che si estende, alla cosa che occupa spazio, quindi che lo spirito sia irriducibile alla materia. Come dire, l'applicazione del ragionamento di Occam, o semplicemente la preferenza soggettiva di una persona per le ipotesi monistiche piuttosto che per le dualistiche, porta all'abbandono di una ipotesi come quella cartesiana. E dice no, in realtà, diciamo, variante l'essere umano non è qualitativamente diverso dagli altri animali, certo che è diverso come ogni specie animale è diversa da un'altra, ma non c'è nell'uomo un principio che sia soltanto tipico dell'uomo, una qualche sostanza, un qualche cosa, un quid, una appunto sostanza, una essenza, che non ci sia in tutti gli altri animali, e questo spiegherebbe il linguaggio, la coscienza, il pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io questa è la prima cosa, questo è il primo punto da cui io cercherò di dare una risposta al problema del linguaggio in termini monistici, primo, quindi non in termini dualistici. Certamente uno che invece adotti una procedura dualistica risponderà in maniera molto probabilmente diversa da come cerco di rispondere io al linguaggio. E secondo punto di partenza, cioè il mio secondo assunto, il mio secondo a priori, diciamo, oltre all'ipotesi monistica, cioè oltre all'ipotesi non esiste altro che la materia da un punto di vista sostanziale, la quale ha tanti modi di esplicarsi, tra cui anche questo particolare animale che si chiama Homo sapiens, che fra le sue caratteristiche ha quello che noi chiamiamo linguaggio e quello che chiamiamo pensiero. Ma questa cosa non richiede l'introduzione di alcun principio, di alcuna sostanza ulteriore rispetto alla, come dire, materia. È un'ipotesi materialista radicale. La seconda assunzione, che anche questa non è dimostrabile in quanto tale, come nessun nucleo di nessuna teoria scientifica è dimostrabile. La teoria della gravitazione di Newton non è dimostrabile nella sua nei suoi presupposti. La teoria di Newton presuppone che la materia sia dotata di una qualità piuttosto misteriosa, bisogna dire, perché non sappiamo perché Newton pensasse così, e cioè che due masse poste a una certa distanza si attraggono l'una con l'altra. Questa è una asserzione nella teoria di Newton, che se non ci fosse tutta la teoria di Newton crollerebbe, perché la teoria di Newton mi spiega, la teoria di Newton ha un grandissimo successo perché mi dà una bella formula, mi dice se le masse sono M1 ed M2, se la loro distanza è R, la forza con la quale le due masse si attraggono è F uguale un certo numero che non so qual è, K, per M1 per M2 diviso R al quadrato. La forza di attrazione tra due masse è direttamente proporzionale alle due masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. La regola funziona benissimo sulle masse grosse, non certamente su quelle delle particelle subatomiche. Ma diciamo, le masse macroscopiche funzionano benissimo ed è la vera ragione per la quale la teoria di Newton ha avuto così tanto successo. Ma voi capite che dietro a questa cosa c'è un presupposto della, come dire, teoria di Newton. Questa forza, noi, come dire, nessuno ha mai vista la forza di gravitazione, no? Le forze non si vedono. Si capisce che ci sono dai loro effetti. Ma per poter agire una forza ha bisogno di un certo presupposto. Il presupposto della teoria di Newton è qualunque coppia di masse posta in un qualunque posto dell'universo si attrae reciprocamente. Adesso, la teoria di Newton presuppone questa cosa senza che le due masse si tocchino, no? non c'è nessun contatto tra le due masse, stanno una qua, l'altra là, però misteriosamente si attraggono. Obiettivamente questa, che si chiama azione a distanza, è un presupposto metafisico della teoria di Newton, non è dimostrabile. Ripeto, la teoria di Newton funziona perché ci dà degli strumenti matematici molto belli e molto forti, per cui tutto quanto, come dire, funziona. Ma dietro a questa cosa c'è idem. La teoria della relatività di Einstein, che ha stravolto quella di Newton e l'ha praticamente buttata nel cesso, l'ha fatta perché, adesso non voglio dire, però forse fra le tante ragioni per cui questo giovanotto, questo giovane tedesco che non aveva passato l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo e faceva l'impiegato nell'ufficio brevetti, a 26 anni comincia ad inventarsi così. E cosa probabilmente era perché Einstein era insoddisfatto di questa premessa metafisica, diciamo, di Newton, no? E dice, cazzo, ma perché? Ma cosa vuol dire azione a distanza? Prima della fisica newtoniana c'era un'altra fisica, meccanica, materialistica, pure quella che era quella cartesiana, che prevedeva l'azione per contatto. Diceva Cartesio, due corpi non possono agire l'uno sull'altro se non si toccano, no? E quando uscì questa roba di Newton, diceva, no, le masse si attraggono. I cartesiani in tutta Europa gli fecero bum bum bum, ma che cazzo dici, ma che è, ma sei matto, ma sei scemo, ma come, se non si toccano come può agire un corpo su un altro se, diciamo, non lo tocca? E i cartesiani resistettero per 50-60 anni tutti, no, non è vero, non è possibile, era comprensibilissimo dal loro punto di vista. Perché poi pretettero? Perché come degli stupidi non si accorsero che non gliene fregava niente al resto della comunità scientifica d'Europa su quale fosse il presupposto metafisico. I corpi devono toccarsi oppure i corpi possono agire a, come dire, distanza. La matematica, diciamo, di Newton, cioè le previsioni, diciamo i calcoli fatti con la teoria di Newton funzionavano meglio di quelli con la teoria di Cartesio, e quindi nel giro di 60-70 anni al massimo la fisica cartesiana era bella che morta e oggi non si ricorda più nessuno, e invece quella newtoniana fu quella sulla quale si costruì tutta la scienza moderna, insomma. Ma ciò nonostante, la meccanica di Newton si basa su di un presupposto metafisico indimostrabile, è quello che alcuni filosofi della scienza del secondo Novecento chiamarono il nucleo metafisico delle teorie. Ogni teoria scientifica, anche teorica, ha un nucleo metafisico, c'ha qualche cosa che non è dimostrabile, quindi che è metafisico, che va al di là, che è una assunzione, dice la faccio. Ci sono momenti, allora, è vero che la fisica newtoniana non crollò tanto perché aveva neanche le teorie aristoteliche precedenti crollarono perché non funzionavano, perché non erano in accordo con i dati sperimentali. Qualunque teoria può essere messa in accordo con qualunque dato sperimentale, basta moltiplicare le ipotesi, fare qualche aggiustamento, aggiungere delle robe in più e tutto funziona. Anche la teoria di Tolomeo, no? Che la Terra stava al centro dell'universo, i pianeti si muovevano su delle sfere, eccetera eccetera, per una prima fase funzionava tutto, poi uno comincia ad osservare meglio il moto dei pianeti e scopre che ci sono alcune irregolarità che non sono spiegabili. Io con la teoria di Tolomeo, cioè i tolemaici mica si tiranizzano, aggiungiamo una ipotesi in più, non solo il pianeta si muove solidalmente su una sfera intorno alla Terra, ma poi si muove pure su una circonferenzina sulla superficie di questa sfera, epiciclo. E per un po' le cose funzionano. Poi si scopre, no, ma c'è quest'altro pianeta che non va in... non ce n'è solo una, ce n'è due. Allora, è chiaro che se uno aggiunge troppe ipotesi, queste qua si chiamano ipotesi ad hoc, cioè ipotesi specifiche, fatte apposta per una certa cosa. Se uno ne aggiunge troppe, evidentemente, poi dice, vabbè, ma ragazzo, mi sembra buono, quante cazzo di circonferenze mi hai messo su questa sera, vaffanculo. Ma non fu tanto questo per la vera ragione per la quale... voi, come dire, pensate che Copernico e è uno che sbagliò totalmente, perché lui pensava di aver costruito una, diciamo, teoria alternativa a quella di Tolomeo, basandosi sempre sulle orbite circolari. Ci è voluto Keplero per dire, oh ragazzi, ma dove esiste? Non funziona niente con le ipotesi circolari. E con le traiettorie circolari l'ipotesi copernicana funzionava ancora meno di quella tolemaica. Eppure ebbe un grande successo anche in quella fase lì. Perché? Perché c'era una insoddisfazione, cominciava ad esserci una insoddisfazione nella comunità di quelli, per il nucleo metafisico, per le ipotesi indimostrabili della teoria tolemaica, cioè la Terra sta immobile intorno al tempo. Era implausibile che un corpo celeste uguale a tanti altri, uguale a Marte, uguale a Mercurio, cioè uguale, simile, a Venere, eccetera, avesse il privilegio di stare fermo. Dice no, è tutto giratorio. Era più probabile che fosse il Sole, una roba molto più grande di qualsiasi altro di questi pianeti, eccetera, una roba gassosa e incendiata e non più o meno solida. Vabbè, poi c'è Giove che non è tanto solido, ma insomma più o meno solida come gli altri pianeti. Era più ovvio che, cioè, c'era, come dire, bisognava cambiare il nucleo metafisico, non non so se mi sono, come dire, spiegato, insomma, cioè in tanti momenti non è l'accordo con i dati dell'esperienza che fa cambiare le, come dire, teorie, quanto l'insoddisfazione per il nucleo metafisico. Allora, arriviamo ad Einstein. Probabilmente Einstein era insoddisfatto del nucleo metafisico della teoria, diciamo, newtoniana, e quindi dice no, non è vero, non c'è nessuna forza di attrazione e non c'è nessuna azione a distanza. Adesso vi dico una cosa che ci libera della roba più imbarazzante della teoria newtoniana, l'azione a, diciamo, distanza. E però cosa fa? Introduce, quindi dice, guardate che le cose sono un po' più complicate, noi non ce ne rendiamo conto, ma lo spazio non è omogeneo come noi pensiamo. Lo spazio può essere, lo spazio in quanto tale, non gli oggetti che sono dentro, lo spazio che noi supponiamo omogeneo, isotropo, uguale in tutte le direzioni, astratto, neutro, non è affatto neutro. È lo spazio che è influenzato dalla presenza delle masse. Questi due libri sono piccoli, sono troppo piccoli, ma in qualche modo influenzano lo spazio che sta in noi. Diciamo, l'influenza che loro hanno su questo spazio è troppo piccola perché noi ce ne rendiamo conto anche con qualsiasi strumento, però un po' anche loro lo fanno. Le masse, dice Einstein, curvano lo spazio, fanno delle curvature nello spazio, gli fanno delle bolle, delle gibolle, si dice con i dialetti lombardi, mi dicono, non lo so, dei botti, delle incavature, insomma. In queste incavature dello spazio è questo, dice Einstein, che spiega il moto dei, perché la Terra gira intorno al Sole, perché la massa del Sole e quella della Terra messe insieme creano quella certa curvatura dello spazio per cui la Terra scivola in questa curvatura e fa questa traiettoria intorno al Sole. Ahimè, purtroppo la curvatura dello spazio di Einstein è una ipotesi altrettanto metafisica dell'azione a distanza di Newton, ma non è un difetto della teoria di Einstein. Probabilmente qualunque teoria ha bisogno di una roba di questo genere, ha bisogno di un punto di partenza, di un punto. Allora, ve l'ho fatta lunga per dirvi che, madonna, ma almeno sapete qualcosa di più sulle, che magari nessuno ve l'ha mai detto, queste robe sulle teorie, tutti vi dicono che le scienze sono, le scienze non sono barcollano come tutto il resto dei discorsi umani, non è che sono tanto più privilegiati, solo che hanno delle robe che funzionano, cioè la cosa di Einstein ha un grande successo perché i calcoli di Einstein funzionano altrettanto bene di quelli di Newton, anzi a grandi distanze e a grandi livelli anche meglio. Nelle particelle subatomiche i calcoli di Einstein non funzionano per una bella minchia invece. E ci vuole un'altra teoria chiamata meccanica quantistica, che quella funziona benissimo, anche se è ancora più complicata, ancora più strana, e anche quella c'ha delle cose metafisiche. Il principio di indeterminazione di Heisenberg non è dimostrabile, cioè si verifica che è così nei fatti, ma in quanto tale dire è impossibile misurare contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella nel mondo subatomico, non è che sia dimostrabile in quanto tale quel principio. Si può verificare, dice, guarda, è vero, è sempre così, ogni volta che la immobilizzo lì per dire stai lì, non riesco mai a misurare la velocità. Ogni volta che misuro la velocità, dice, ah, quanto sei veloce, non so mai dov'è, e non so se sta qui, là, qua, lì, cioè. Però non è che posso dimostrarla, come non posso dimostrare l'azione a, come dire, distanza nella teoria di Newton, come non posso dimostrare la curvatura dello spazio nella teoria della relatività di Einstein, come non posso dimostrare. Così non posso dimostrare, arriviamo finalmente al secondo punto, il mio punto di partenza, e cioè che è l'evoluzione. La spiegazione o la descrizione della storia della vita su questo pianeta tramite un principio chiamato evoluzione darwiniana. Allora, il primo principio, ve l'ho detto qual è un principio generalissimo, monistico. Io non mi baso su ipotesi dualistiche, credo che cerco di spiegare tutto con la sola esistenza e presenza della materia o di un particolare tipo di materia chiamato materia vivente. La conseguenza del primo punto è che non posso considerare l'uomo un animale qualitativamente diverso dagli altri animali. Certo, ha delle fenomenologie differenti dagli altri animali, ma è un animale, noi siamo degli animali esattamente come gli altri, non abbiamo privilegi da questo punto di vista. Il secondo punto invece è come spiego la comparsa dell'uomo, la comparsa di altri animali. Allora, la spiego con il principio di, con la teoria evoluzionista enunciata per la prima volta da Charles Darwin nel 1860, nel libro L'origine delle specie. Più nello specifico, la teoria di Darwin prevede che non esiste un progetto nella natura, nessuno ha progettato nulla nella natura, non c'è il vecchietto sulla nuvola con la barba che dice adesso creo il mondo, o anche se il mondo c'è già perché non l'ho creato io magari, però io indirizzo la storia di questo mondo verso una certa direzione. Non c'è. Il vecchietto non c'è. E non c'è neanche, anche se non c'è il vecchietto, in realtà i dualisti se ne inventano di tutte per riuscire a... Allora, tolgono anche Dio, hanno tolto anche Dio i creazionisti americani, alcuni creazionisti americani. Non parlano più neanche di Dio, vabbè, no, ma Dio non c'è, non ne parliamo neanche. Però dicono, è impossibile spiegare la, come dire, natura se non ricorressimo ad un progetto intelligente, ad un intelligent design. C'è un intelligent design, secondo questi neocreazionisti, nella natura, che è l'unico modo, secondo loro, per spiegare la complessità dei fenomeni della vita sulla Terra. Adesso non è che abbiamo il tempo di discutere tutta questa roba qua. In breve, una qualunque teoria di intelligent design, quindi una teoria, usiamo il parolone greco, teleologica, teleologia significa i processi che accadono hanno una destinazione, hanno una finalità. Questa finalità, attenzione, questa è la nuova trincea dei creazionisti, che poi sono sempre dualisti, insomma. Lasciamo perdere Dio, ma è come se, cioè non è possibile spiegare la storia del mondo se non introduciamo un qualcosa che non sappiamo che è stato, non c'è una entità che ha realizzato questo intelligent design, ma è come se qualcuno l'avesse realizzata, come quando si dice i complottisti, come dire, le teorie complottiste sbagliano, però ci beccano sempre, cioè sbagliano nel senso che dici magari non c'è quello che ha voluto fare il complotto, però è come le la strage di Piazza Fontana, visto che oggi è l'anniversario, la strage di Ustica, qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, è come se dietro ci fosse un burattino, magari non sappiamo se c'è, ma è come se ci fosse un complotto, come se qualcuno avesse organizzato le cose per farle andare così. La strategia della tensione. Sì. Allora, la tensione è chiaro che qualche figlio di puttana c'è stato, queste opere, non voglio dire di no, insomma. Però tante volte anche lì si sbaglia, anche noi abbiamo, come dire, sopravvalutato le capacità di questi di fare. In molti la tensione c'è stata ed è in dubbio, questo è chiaro. Però molte volte anche gli strateghi della tensione hanno semplicemente usato, sono riusciti a usare delle cose che avvenivano più o meno per caso, insomma adesso. Cioè che tutti i gruppi fascisti che hanno messo bombe dal 68 al 65, perché non c'erano prima nel 69, dal 65 all'85, insomma, poi al 90 poi hanno praticamente smesso. Probabilmente qualcuno di questi gruppi non era collegato con i servizi segreti, erano dei pazzi per i fatti loro. Ovviamente però una volta che arriva una scheggia impazzita, con i servizi segreti li hanno usati. Idem per le Brigate Rosse. Io personalmente giudico poco credibile l'idea che le Brigate Rosse fossero realmente pesantemente infiltrate da servizi segreti, quindi che il rapimento Moro sia stato, probabilmente no, era una roba loro, però è ovvio che i servizi segreti l'hanno utilizzato. Ecco, allora, nello stesso modo più o meno uno dice, allora, mentre però nelle cose, diciamo, dell'uomo, degli esseri umani, nella storia, come dire, dell'uomo, è ovvio che c'è un intervento cosciente degli esseri umani, questo è chiaro, ma nei fenomeni naturali non solo non c'è alcun intervento cosciente, ma la teoria della selezione naturale prevede che non ci possa essere proprio e che tutto vada spiegato solamente in base a dei fenomeni totalmente casuali, cioè è il caso che crea, i quali però agiscono come? Agiscono, diciamo, sfruttando due, diciamo, questioni, due, come dire, parametri sui quali si può spiegare l'evoluzione. Primo, la casualità dello sviluppo e della riproduzione degli esseri implica l'esistenza di un certo numero di esseri di una certa specie animale o anche vegetale vivente che non siano esattamente conformi al modello di quelli precedenti, cioè ci sono delle mutazioni casuali. Da quando è stato scoperto il DNA, insomma, allora è più chiaro, perché ci sono dei pezzettini di DNA che non vengono copiati, che vengono replicati diversi, fanno degli errori, l'RNA che è quello che trasmette, copia da un supporto all'altro questa elica del DNA, a volte l'RNA fa degli errori, come fa degli errori il computer quando gli stacchi la spina e perde, no? C'è una piccola cosa si smagnetizza, una lettera ti va così, insomma degli errori. Noi facciamo degli errori, anche noi, ma che noi facciamo degli errori è più ovvio, insomma anche le macchine li fanno, quindi figuriamoci se non li fa un pezzettino di roba, come dire, viola. Quindi alcuni di questi esseri, c'è sempre una qualche piccola percentuale di individui all'interno di una certa specie, i quali sono mutati, sono dei mutanti, non hanno esattamente lo stesso corredo genetico che hanno gli altri. Questo è il primo principio. Il secondo principio è quello della sopravvivenza. Tutte le specie animali, come dire, vivono e si sviluppano entro un ambiente, anche se non ostile, con delle criticità, con certe difficoltà, e quindi c'è una specie di non, diciamo, cosciente, ma una come dire, di fatto c'è una competizione per la vita, le specie competono, diciamo, per la vita. No, la competizione per esempio non riguarda tanto il rapporto fra predatore e preda, è chiaro che se un essere, come dire, vivente, una specie vivente è la preda di un altro, quest'altra specie sopravvive se i suoi individui riescono a procurarsi sufficienti prede da poter sopravvivere. Ma il conflitto, la competizione c'è per esempio tra due specie di predatori diversi che siano sulla come stessa preda, e se lo capita, tra due specie diverse che abitano lo stesso territorio e consumano almeno una parte delle risorse comuni, quindi c'è una competizione. Bene, allora succede che diciamo queste variazioni casuali che si verificano nell'ambito di certi esseri, di certi esseri viventi, casualmente favoriscono, può capitare che, diciamo, fra 100, che ne so, 100, 1000, mutazioni che si sono verificate casualmente dentro una specie, la gran parte di queste sono totalmente, come dire, indifferenti alla sopravvivenza, cioè non danno all'individuo che ne è portatore qualche chance in più di altri di sopravvivere. Queste si perdono, nel senso che rientrano nel calderone statistico, cioè gli animali che sono, gli individui che sono portatori di queste, come dire, mutazioni, non hanno maggiori probabilità dei loro confratelli, dei loro conspecifici di trovare il cibo o di riprodursi, cioè di accoppiarsi se sono maschi con più femmine, se sono femmine con più maschi di altri. In questo caso queste mutazioni sono totalmente indifferenti, ma può essere che anche una piccolissima parte di queste mutazioni assicurino agli individui che ne sono dotati qualche caratteristica particolare per cui questi individui hanno più successo di altri, più successo dei loro conspecifici, parliamo di leoni, parliamo di gazzelle, parliamo di qualche leone mutato avrà qualche in modo totalmente casuale le diversità, le differenze che lui presenta rispetto a quelli della sua stessa specie fanno sì che questo individuo sia favorito nell'accesso al cibo e nell'accesso ai conspecifici dell'altro sesso, se è una specie animale, come quasi tutte dagli anfibi in poi, che prevede la riproduzione sessuata, quindi non parliamo di lombrichi o di vermi o di roba del genere, ma parliamo di animali da una certa complessità in su. Nel caso di riproduzione non sessuata, l'unica cosa che invece funziona è l'accesso al cibo. Se questo avviene, cioè se questa mutazione ha casualmente conferito a questi particolari individui delle chance in più di procurarsi il cibo e di procurarsi le femmine o i maschi, è evidente che questi all'interno di quella popolazione risultano favoriti rispetto ad altri, quindi molti altri dei loro conspecifici non avranno il cibo e moriranno, o non avranno accesso alla femmina o al maschio e quindi non trasmetteranno alle generazioni successive, mentre l'individuo mutato sì. L'accumulo attraverso un certo numero di generazioni di questo patrimonio genetico mutato casualmente all'inizio, totalmente casuale, attraverso il meccanismo di competizione per la sopravvivenza e con il principio della sopravvivenza del più adatto, cioè sopravvive meglio chi ha caratteristiche più adatte a quel certo ambiente, a quella certa nicchia ecologica in cui vive quella certa specie animale, fa sì che questa specie animale, che all'interno di una certa specie questi animali, questi individui dotati di caratteristiche mutate, sopravvivano meglio di altri e trasmettano più di altri il proprio materiale genetico alle generazioni successive. Nel cumulo delle generazioni, non possiamo dire in quanto tempo, ma certamente ci vuole un bel po' di tempo, diciamo minimo centinaia di migliaia di anni, o decine di migliaia, non certo pochi anni, ma con il tempo può essere addirittura che l'individuo, se si aggiungono altre mutazioni casuali, che la popolazione di individui al tempo T più N sia abbia delle caratteristiche molto difformi, molto diverse da quella che era quella popolazione al tempo T. Che cosa è successo? È nata una nuova specie. La speciazione, cioè la nascita di nuove specie, avviene così. Allora voi insomma sapete come pensavano gli scienziati, insomma gli studiosi nel 600-700, anche Linneo, che fu il primo che si impegnò in questo grande lavoro di sistemazione, di una descrizione generale di tutte le specie, tutti erano convinti che le specie fossero fisse, no? Il cavallo, ma sì, c'è sempre stato, il rinoceronte, ma sì, c'è sempre stato, il giaguaro, c'è sempre stato, l'uomo, c'è sempre stato, e poi a un certo punto però uno studiava i fossili, dice ma come, scatto, dice, 100 milioni di anni fa di cavalli non ce n'erano, non si trovano fossili di cavalli, di animali con lo stesso scheletro, eccetera, eccetera, però si trovano gli animaletti 100 milioni di anni fa, molto piccolini, grandi come un mammifero di piccola taglia, che hanno delle caratteristiche simili a quelle del cavallo. Ah, questo è l'antenato del cavallo, quindi a poco si fa l'idea che le specie si trasformano. Ma qual è il meccanismo di formazione delle nuove specie? Esattamente questo, ci dice Darwin. Adesso poi non vi dico, in realtà dentro al campo darwiniano c'è stato nella seconda metà, soprattutto del Novecento, una discussione molto forte, cioè se il processo di selezione, questa si chiama selezione, questa è la selezione naturale, insomma, il processo di selezione avvenisse o fosse descrivibile come sembrava che l'avesse impostato Darwin nelle sue opere, L'origine della specie, L'origine dell'uomo, eccetera, eccetera, come un processo continuo, per piccolissimi passi, con continuità, a un certo punto l'accumulo di piccole differenze, genera, nella teoria darwiniana, come è espressa da Darwin, non c'è nessun salto, cioè il salto è semplicemente il momento in cui le continuità sono, cioè le differenze aggiunte poco a poco, sono diventate tali per cui a un certo punto. La teoria di Darwin però spiegava poco tutta una serie di fenomeni, tra i quali i più importanti sono le cosiddette estinzioni di massa. Se ai tempi di Darwin non era chiaro ancora, ma già qualche decennio dopo si cominciò, già ai primi del Novecento si cominciò a studiare, lo studio dei fossili ci dimostra che in momenti particolari della storia della vita sulla Terra si sono verificate in brevi periodi di tempo, brevi periodi vuol dire alcune centinaia di miliardi di anni, o qualche milione di anni evidentemente, rispetto a 4 miliardi e mezzo di età dell'universo e a 3 miliardi e mezzo di anni di comparsa della vita sulla Terra, evidentemente anche qualche milione di anni è una piccola, è un tratto di tempo, centinaia di miliardi, al massimo milioni di anni. Quindi in periodi brevi si sono verificati dei fenomeni veramente catastrofici, cioè è scomparsa di botto, scompaiono un numero ingente, una percentuale rilevante di tutte le specie viventi. La più grossa è stata quella, non mi ricordo più qual è quella, prima ancora del Pleistocene, sì, credo nel Miocene, in cui praticamente l'80% delle specie viventi sulla Terra si estinguono d'un botto, cioè un botto, ne rimane il 20%, questa è la prima grande, poi ce ne altre 5, se sono 5 o 6, non mi ricordo bene, sono 5 o 6. No, forse questa che dice adesso è la sesta. Fa un po' ridere adesso che l'idea che l'uomo possa da solo con la sua, l'uomo è una specie ridicola perché siamo qui da 200.000 anni, Homo sapiens, no? Compreso tutto i nostri più antichi predecessori, 1,5 milioni di anni, no? I primi australopitechi sono 1,5 milioni di anni fa. Nessuna specie, certo noi siamo un po' particolari, questo è vero, insomma, però è molto difficile che la nostra sola azione sia in grado di causare un'estinzione così massiccia di tutte le specie animali, quindi va bene, cioè, questo non vuol dire che non si deve essere ecologisti, bla bla, eccetera, però insomma, adesso molti esagerano perché c'è questa storia di questo catastrofismo, insomma. Le catastrofi ci sono sempre state nella storia di questa Terra, cioè non è che le ha introdotte l'uomo, no? Quindi adesso ci fermiamo tra un attimo perché vedo già che vi fuma il cervello, però voglio solo arrivare a un punto, poi dopo facciamoci un minuto di pausa e vi spiego dopo. Allora, diciamo, a un certo punto, diciamo tra gli anni 50 e 60, forse 60 e 70 del secolo scorso, qualche biologo ha cominciato a dire, beh, forse però non è proprio, non è sufficiente questa spiegazione come l'ha messa Darwin, cioè che tutta l'evoluzione avviene gradino per gradino, per continuità. Ci sono dei momenti in cui ci sono dei salti. Allora questa teoria qua, che è stata sviluppata soprattutto da due personaggi che sono Stephen Jay Gould e Richard Lewontin, due biologi, due teorici dell'evoluzione. Stephen Jay Gould è morto da poco ed è il più famoso dei due, che è quello che ha scritto i libri divulgativi anche più divertenti, il Polis del Panda, questa roba qua, non so, però la teoria è stata elaborata nella prima fase da Gould e da un altro con un nome impronunciabile che è Gerba, non so caso. È arrivata più o meno all'inizio, cioè fra 5 minuti facciamo parte. Come si chiama? Gould e Verba, adesso non mi ricordo bene. Però poi dopo Lewontin l'ha ripresa, gli ha dato. Allora, secondo questa teoria, però non ci so, ve la dico soltanto per farvi capire come è cambiato il darwinismo, cioè per cui però senza. Non sono cambiati né Jay Gould né Lewontin, contestano i due punti che vi ho detto prima, cioè il meccanismo fondamentale rimane mutazione casuale, principio della sopravvivenza del più adatto. Però invece di applicarlo con un modello totalmente continuista, Stephen Jay Gould e Lewontin hanno formulato questa teoria, che si chiama teoria degli equilibri punteggiati o teoria degli equilibri puntuati, adesso si trova il termine in cui il modo, la parola inglese viene, che non mi ricordo neanche quale sia, ma comunque viene tradotta a volte con puntuati, a volte con punteggiati, teoria degli equilibri punteggiati, che avevamo la prima, che punteggiati fa meno schifo di puntuati, ma insomma. Allora, che cosa dice questa teoria? Dice, va bene, i due principi di base sono questi, però ci sono momenti nei quali questo processo si accelera e in modo catastrofico. Quindi, secondo le teorie di Gould e di Lewontin, la speciazione può avvenire sia come effetto di un processo continuo, sia come effetto di un processo discontinuo. Oh, e adesso voglio introdurre, lo so che vi fuma il cervello, ma resistite altri 5 minuti, perché poi dopo passiamo al linguaggio. Tutte queste robe poi le applichiamo al caso del linguaggio. Allora, uno dei concetti importanti che hanno introdotto Lewontin e Gould è questo. E non ti ho letto, non è che se faccio lezione non posso leggere anche i messaggi, non mi ricordo neanche che arrivano. Dove siamo arrivati? Cosa stavo dicendo? Che mi hanno distratto. Certo discontinuo. Certo continuo. No. Tu cosa hai scritto? E io ero i due principi. Ah sì, ok, ci sono arrivato. Allora, ci sono delle accelerazioni. Sì, va bene. Allora, questo, allora, una delle componenti nuove di questa teoria, chiamiamola neodarwiniani, questi qua si chiamano i neodarwiniani. Poi ci sono dei darwiniani più classici, il cui principale esponente si chiama Richard Dawkins, vabbè ragazzi, ve lo dico così almeno sapete anche un po'. Dawkins, D-A-W-K-I-N-S, il cui libro più famoso è Il gene egoista. I quali invece rifiutano queste, come dire, diavolerie, queste aperture, diciamo, dei neo-darwiniani al discontinuismo, no? Diciamo, e quindi Dawkins sostiene che in realtà i processi rimangono continui, bla bla bla, eccetera, eccetera, insomma, però in realtà, per dirla in breve, adesso non voglio farla troppo lunga, anche perché non voglio fare una lezione sul darwinismo, non è darwinismo. Diciamo, i darwiniani ortodossi, come Dawkins, sono molto più deterministi dei darwiniani, dei neo-darwiniani, cioè dei darwiniani punteggiati, chiamiamoli, dei guldiani e dei lewontiniani, insomma. Quindi naturalmente voi capite bene quali mi sono più simpatici a me, insomma, ovviamente i, diciamo, secondi rispetto ai primi, cioè i non deterministi rispetto, i discontinuisti non deterministi rispetto ai continuisti deterministi. Uno dei concetti nuovi che hanno introdotto Lewontin e Gould, adesso ci arriviamo, è una variazione del concetto di adattamento, in inglese adaptation. Adesso vi spiego perché. C'è una parolina che viene tradotta in italiano in modo barbaro, insomma, perché non c'è neanche in italiano, non c'è neanche in inglese, è un neologismo anche in inglese. Allora, adattamento in inglese si dice adaptation. Allora, nella teoria darwiniana classica, altra cosa, non so mai che cosa sapete di biologia, quindi vi devo fare tutta la cosa. Allora, la teoria darwiniana, dal 1860 in poi, sconfisse, sto facendo un passo indietro, adesso poi dopo torno a Gould e a Lewontin, sconfisse negli anni, tra 1860, 80, 90, nell'Ottocento, una precedente teoria evoluzionista dovuta a un signore chiamato Lamarck, che era francese, sia pure di figlio tedesca. Lamarck. È Lamarck lì. Il Lamarckismo sosteneva due cose che oggi sono assolutamente indifendibili dal punto di vista biologico. La prima è che l'uso crea la funzione, cioè che certi organi esistono perché certe abitudini di alcuni animali hanno creato quegli organi. Esempio, le ali degli uccelli. La teoria lamarckiana sulle ali degli uccelli è: le ali degli uccelli servono, cioè si sono sviluppate perché questi uccelli volevano, dovevano, come dire, volare. Questa cosa adesso vedremo perché è stata sconfessata dal Darwin. Il secondo punto di Lamarck, che Darwin, diciamo, dimostra assurdo, è questo. Gli esseri viventi possono trasmettere all'interno del corredo genetico ai propri discendenti qualunque mutazione casuale avvenuta nel corso della loro esistenza, anche di un singolo. Allora, la teoria darwiniana è anti-lamarckiana su tutti e due i punti. Primo, non c'è nessuna funzione creata dall'uso, ma ancora una volta il meccanismo è totalmente casuale, e casualmente gli animali gli individui dentro una certa specie che erano dotati di alcune appendici, le braccia, gli arti superiori sviluppati in un certo modo con delle membrane, eccetera, eccetera, e che quindi erano in grado anche soltanto di svolazzare in una serie di ambienti, si trovarono avvantaggiati casualmente rispetto agli altri, e quindi sempre con gli stessi due principi. Quindi, primo, non è affatto vero che la funzione sia l'uso. Secondo, non è affatto vero che gli animali possono trasmettere una qualunque mutazione casualmente avvenuta ai propri discendenti, ma questa caratteristica biologica deve essere registrata nel codice genetico. Tenete conto che Darwin scriveva prima, non so se anche le leggi di Mendel sulla genetica stavano nascendo in quel periodo, ma insomma già si sapeva che c'era un qualche cosa chiamato corredo genetico, non sapeva che era il DNA, eccetera, no? Perché non è stato scoperto nel 1954 il DNA, però Allora, questi sono i due punti del lamarchismo. Questa è una concezione, diciamo, oggi noi possiamo dire ingenua, e con delle, con dei rischi di, diciamo, teleologismo, di, come di finalismo. La concezione di Lamarck dà spazio a un certo finalismo, ah, c'è un fine della natura, ah, c'è un progetto intelligente in qualche modo, anche se non c'è Dio che l'ha fatto, eccetera, ma in qualche modo c'è una logica intelligente. Invece la spiegazione darwiniana, e su questo ovviamente i neo-darwiniani non hanno niente da dire, anzi sono completamente d'accordo, invece è totalmente ateleologica, è casuale, dà diciamo, il meccanismo fondamentale è quello della mutazione casuale. E diciamo, il filtro che seleziona le mutazioni casuali è la sopravvivenza del più adatto. Se casualmente un animale sviluppa cose che sono, sviluppa caratteristiche che sono più adatte, sopravviverà meglio di altri, cioè mangerà più di altri e scoprirà più di altri, e quindi trasmetterà queste cose ai suoi vicini. Allora, in genere però la concezione darwiniana classica, quindi in modo anti-lamarchiano, non c'è nessuna funzione che crea l'organo, gli organi sono casuali, vengono fuori e poi quelli si selezionano, quelli che sono più di adatti. In qualche modo però il meccanismo darwiniano classico di selezione degli organi è a senso unico, cioè se un qualche cosa non serve allo sviluppo di una certa, adesso poi facciamo un esempio, semplicemente si atrofizza e non viene più usato una certa parte del corpo, eccetera. Esempio umano, l'appendice. L'appendice rappresenta probabilmente una roba che prima c'era un'altra roba nell'intestino, ma non serve a nulla negli esseri umani. E infatti ogni tanto si infiamma e si può togliere senza nessun problema. Al contrario delle invece tonsille, delle adenoidi, che sono molto utili, ma che per tutto un periodo vennero estirpate, io sono una delle vittime di queste, tu anche, perché di queste, cioè, ci togliamo, via, e che cazzo togliere, no? Stai tranquillo, no? A qualcosa serviranno, Dio buono, tu ce l'hai, stai male, sei, no, sai, allora, io lei non è che siamo meglio di te perché non abbiamo le tonsille, no, adesso, scherzo. Allora, torniamo alla cosa da darwiniana. Allora, c'è nel darwinismo classico, come dire, c'è una corrispondenza bionivoca in qualche maniera tra diciamo, nuovi organi e funzioni sviluppate, no? Se c'è una mutazione casuale che crea un certo organo e questo organo trova un uso, ha un certo uso, benissimo, questo si trasmette a quelli con i successivi. Se una mutazione casuale non trova il proprio uso, cioè non c'è nessuna funzione a cui questo pezzettino del corpo adempie, questo organo non si svilupperà. Ma diciamo, in generale, c'è una corrispondenza bionivoca tra organi e funzioni. Organo, funzione. Un organo, una funzione. Nessun organo, nessuna, come dire, funzione. La conseguenza di questo principio, di questa doppia freccia, cioè organo, funzione, funzione, organo. La conseguenza di questa cosa è che ogni funzione praticamente ha sviluppato un organo per conto suo, non ha creato nulla, ma insomma è come se avesse creato un organo totalmente nuovo, no? Esempio, adesso vedremo che negli esseri umani una delle caratteristiche che ci sembra caratterizzare noi anche rispetto agli altri, come dire, primati è l'abbassamento della laringe. Noi abbiamo la laringe, quindi l'organo della respirazione, abbassato rispetto alla faringe, cioè l'ingresso del tubo digerente. L'abbassamento della laringe è una delle condizioni per cui noi parliamo, perché abbiamo più spazio, c'è più spazio e c'è una modulazione più fine dei suoni. perché la laringe è più bassa. Questo crea un grave problema, che voi tutti sapete qual è, quello che possiamo strangugliarci quando mangiamo. Allora, per questo, voi sapete tutti, c'è una specie di lamella, che si chiama epiglottide, che ogni volta che noi inghiottiamo, il movimento muscolare di inghiottimento fa scattare questa roba, ci blocca la povera, come dire, laringe, e il cibo va dietro nella, come dire, faringe. Tutto questo, gli altri animali non ce l'hanno, perché non hanno questo, come dire, fenomeno, quindi hanno la faringe davanti, e dietro sono tutti tranquilli, anche le altre, come dire, scimmie. Idem lo sviluppo delle corde vocali. Le corde vocali le abbiamo solo noi esseri umani, non ce l'ha, ce l'ha Homo sapiens, non ce l'ha, non sappiamo se altre specie Homo ce l'avessero, perché non, gli organi molli, come ovvio, sapete bene che nei fossili non rimangono solo le ossa, insomma, non rimangono gli organi molli. Però è plausibile che ce l'abbiamo solo noi, perché le altre scimmie antropomorfe hanno due piccolissime robe, ma niente affatto sviluppate, con due specie di protuberanze che ossidano. Quindi la vibrazione, bla bla bla, eccetera, eccetera. Benissimo. Nella teoria darwiniana classica, corde vocali, abbassamento della laringe e in generale tutte le caratteristiche morfologiche del nostro spazio vocale che rendono possibile la modulazione dei suoni tale da poter da farci avere una ricchezza di suoni maggiore di quella di altre specie, sarebbero tutte dovute a degli organi nuovi, no? Adesso però si scopre stranamente, ci sono alcune altre specie, non tante, ma ci sono alcune altre specie, ma non le trovo perché mi ci metterei 3 anni, ma sono su questo libro che è scritto, che è Il prezzo del linguaggio. Anche altre specie animali hanno la faringe abbassata rispetto alle, eppure non parlano. La laringe abbassata rispetto alla faringe, eppure non parlano. Cosa è successo? Come mai? Allora, Lewontin e Gould hanno detto, guardate che l'adattamento, l'adaptation, non è proprio così, come dire, così meccanica e automatica come sembra. Qui tra un po' finisce la pila, ma ciò quello di riserva. In realtà potrebbe succedere che alcune funzioni si basano su mutazioni casuali che non c'entrano nulla con quella funzione, cioè fatte casualmente per, diciamo, le possibili funzioni nuove possono approfittare di caratteristiche evolutive, cioè di mutamenti, trasformazioni interni della parte del corpo, di parti del corpo degli animali che non sono servite a nulla, che stavano lì come delle robe appese per aria. Non è affatto vero, dice Gould, che le mutazioni che non sono servite a qualche cosa vengono, diciamo, scartate da anno. Spesso rimangono lì per milioni di anni. Quell'organismo, quella specie particolare non se ne fa nulla, sino a che a un certo punto arriva l'uso. Ah, però questa, ragazzi, non c'è nessun progetto evidente, ma insomma, come dice, però potrebbe servire per questa cosa, usiamola per questa cosa. E allora loro hanno coniato un termine nuovo, che è il termine exaptation, che a volte viene tradotto in italiano come esattamento. Adaptation, exaptation. Adattamento, esattamento. Si chiama anche, per altri versi, teoria del pennacchio. Adesso cerchiamo di capire perché. Teoria del pennacchio. Il pennacchio viene dalla storia dell'arte, dalla tutti avete presente, in Italia sapete cos'è un pennacchio in un edificio? No. Non avete mai visto i bellissimi pennacchi del Duomo di San Marco? Sono quelle tipo guglie che stanno sotto, no? No, sono robe all'interno, queste specie di ventaglietti che stanno sotto quelle due o tre, che si chiamano piccole cupole, che stanno, in cui ci stanno delle bellissime persone, 4 evangelisti in una. Allora, si ha un pennacchio tutte le volte che una forma rotonda, per esempio una cupola, si innesta su una forma quadrata sottostante. Quando bisogna fare il raccordo tra le quattro mura quadrate e la cosa, ci sono queste robe chiamate pennacchi, sono dei triangoli curvilinei, no? Sono delle robe che si partono così, si allargano così, però sono curve, no? Questi pennacchi non servono a un cazzo, non servono a nulla, cioè che cosa sono? Sono il risultato dell'innesto di due forme allotrie diverse, quella quadrata su quella, diciamo, circolare. Sono il prodotto automatico di questo fatto. Se io voglio mettere un cilindro o una semisfera, la voglio far nascere, la voglio sovrapporre ad una cella, diciamo, quadrata o anche rettangolare, insomma, se uso una ellisse, per forza di cose mi si creano questi, che sono robe che non servono a nulla, perché, cioè, allora però arriva il pittore e dice, però c'ho questo spazio vuoto, gli dipingo sopra, sono quattro, gli faccio i quattro evangelisti, le quattro virtù cardinali, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, i quattro amanti di mia moglie che mi hanno fatto cornuto, una qualsiasi cosa li metto sopra, no? Gli faccio questo qua. Allora, è chiara, come dire, l'idea. Allora, dicono Wood, questo succede esattamente così anche nella evoluzione, diciamo, naturale. A volte alcuni animali si trovano di fronte a delle caratteristiche del corpo totalmente inutili o che sono il side effect, l'effetto collaterale, il risultato casuale di altre cose, di altre trasformazioni venute. Se fosse vero, come sostengono i neo-darwiniani o la versione darwiniana classica, che tutte le mutazioni che non hanno trovato una funzione si estinguono entro breve tempo, non ci sarebbero queste cose, non ci sarebbero, perché tutte queste robe sarebbero, come dire, scomparse. Ma invece, dicono le Wanted and the Good, non è così. E ci sono molte di queste caratteristiche che ovviamente aumenta la casualità nello sviluppo degli organismi, no? Degli organi, insomma, quindi a questo punto, diciamo, l'eventuale sviluppo di nuove funzioni, insomma, detto in soldoni, ha a sua disposizione uno strumento in più di quelli, diciamo, preventivati, di quelli descritti dalla teoria darwiniana classica. Non c'è soltanto una adaptation che crea degli organi nuovi, ex novo, sulla base di una funzione nuova che può essere svolta, non in termini lamarckiani evidentemente, non è che viene prima, insomma, ma che gli organi, non ci sono soltanto gli organi nuovi che possono svolgere funzioni nuove, ma anche organi vecchi o caratteristiche particolari di organi vecchi inutilizzate che possono svolgere questa funzione nuova. Exaptation, teoria del pennacchio. Ci sono i pennacchi che saltano fuori casualmente dall'innesto di due forme architettoniche e arriva il pittore e dice, ah, ci dipingo sopra. Ma i pennacchi non sono stati pensati dall'architetto per dipingerci sopra, sono il risultato automatico di una scelta dell'architetto. Ok, allora è chiara l'idea, quindi. Allora, questa idea dell'exaptation è praticamente, adesso vedremo che alcuni studiosi oggi sostengono esattamente che il linguaggio umano in larga parte è un fenomeno esattativo e non adattativo ex novo, e che in particolare si è basato su mutazioni che erano già presenti anche in altre specie animali o in altre specie di primati, che non hanno avuto funzione per un bel po' di tempo e ad un certo punto salta fuori. Che se... Allora, spero di avervi, adesso riassumo, non ho parlato del linguaggio sinora, ma no, un po' ne ho parlato, ma insomma, adesso poi dopo mi dovete parliamo del linguaggio. Allora, comunque riassumo i due punti, i due criteri sui quali mi baso, e che ripeto, sono criteri indimostrabili, quindi naturalmente voi siete ovviamente liberi di sbeffeggiarli e di dirmi no, io non, non sono d'accordo con questa cosa e io non posso dirvi nulla, evidentemente, perché cioè, ovviamente difenderò le mie, diciamo, scelte per la eventuale, se sono in grado, maggiore brillantezza dei risultati a cui questa porta, ma non posso dimostrarlo, cioè non posso, come dire, farle discendere da una serie di cose. Sono delle scelte di base, irriducibili alla cosa. E queste due cose sono, allora, la prima è il monismo, la scelta monistica, e gli enti non sono, non devono essere moltiplicati oltre le necessità, dal quale, formulazione del ragionamento di Occam, dalla quale io traggo la conclusione, non ho bisogno di supporre una sostanza chiamata spirito diversa dalla materia per poter spiegare, per esempio, gli esseri umani. E seconda cosa, il metodo che uso per spiegare la storia degli esseri umani è un metodo evoluzionistico, e che tiene conto delle due diverse versioni dell'evoluzionismo esistenti oggi, cioè l'evoluzionismo ortodosso, o chiamiamolo genetista alla Richard Dawkins, e invece l'evoluzionismo non determinista, il neodarwinismo alla Gould e Lewontin. No, Gould si scrive così, ma tutti sapete, non vi devo scrivere, no? Gould, non Iliot, Stephen Jay, Iliot trattore, si chiama Gould, guarda, ci sono caso. E l'altro è Richard Lewontin. Le volte che non si è ancora vivo, mentre Le volte è stato calunniato, gli ha detto che è un biologo marxista, non è mai stato un marxista. Quindi sono i due, diciamo, la corrente neo-darwiniana. Vabbè, l'ultima cosa. Allora, è in base a questi due criteri metodologici che cercherò nella prossima ora e mezzo, quello che sia, fa il tempo che ci è avanzato alle 5, di rispondere alla domanda a cosa serve il linguaggio. Cioè cercherò di rispondere ma partendo da questi due, cioè se no, se non vi dicevo questo, non, cioè, perché uno se no ha capito, non, uno può provare a rispondere alla domanda a cosa serve il linguaggio da un punto di vista finalistico o da un punto di vista evoluzionista ma lamarckiano, dice ah, ci serve per questo scopo. Non, allora, a che cosa serve il linguaggio nei termini miei, diciamo, evoluzionisti o neo-evoluzionisti, equivale a chiedersi quali vantaggi evolutivi ha dato il linguaggio alla specie umana rispetto ad altre specie? Questo vuol dire, no? Quindi non c'è nessuna, non ha nessun, nel mio modo di pormela questa domanda, non c'è nessun tono finalistico, eh? Non c'è nessuna coloritura finalistica o teleologica o non dico religiosa, perché ripeto che ci può anche essere un finalismo ateo, però è sempre finalismo, cioè è sempre l'idea che la storia abbia un senso, che invece la storia non ha nessun senso. Siamo noi che guardando la storia diciamo gli diamo lo senso, ma però contemporaneamente, siccome poi siamo in grado anche di autocriticarci, di criticarci, dobbiamo poi, se vogliamo, essere in grado di capire che invece questo senso non è un senso inerente al processo, è un senso inerente alla nostra lettura e alla nostra interpretazione del processo, cioè una conseguenza del fatto che siamo animali linguistici. Ma voi capite bene che il linguaggio, spero che vi si cominci ad aprire alla mente di quali difficoltà sia qualunque discorso sul, come dire, linguaggio, proprio per questo raddoppiamento, per questa duplicità, per questa, dice, ma come? Perché se il linguaggio, non solo il linguaggio crea l'illusione di una finalizzazione, di una sensatezza del mondo, di una razionalità, di una. Ma contemporaneamente però è anche in grado di smontarla questa cosa. Proprio un'analisi linguistica può spiegarci invece che tutto questo non è altro che un effetto di illusione, cioè una sorta di promozione, adesso io vedo come la penso io, cioè di errata identificazione della descrizione linguistica e dell'interpretazione linguistica con il processo reale. È che il processo reale è una cosa difficilmente descrivibile, fra l'altro, se non in termini linguistici, ma possiamo provare anche in termini linguistici a tentare di dare una descrizione il meno caricata possibile di questa significatività o di questa sensatezza che, diciamo, avrebbe. Bisogna dire, per questo che ho dato tanta importanza in questa fase al punto di vista darwiniano, perché obiettivamente la descrizione di Darwin, prima di quella di Freud, molti anni prima di quella di Freud, è stata la prima descrizione all'interno della cultura occidentale che abbia giocato su questa contraddizione, cioè ha tentato di descrivere l'insensatezza di un certo processo, l'evoluzione naturale, esattamente con degli strumenti linguistici. Cioè, se Darwin non avesse avuto a sua disposizione l'armamentario concettuale, no? la sua capacità di concettualizzare, non sarebbe mai arrivato a questa cosa, però ha usato un'arma. Allora, detto in altri termini, il linguaggio è un'arma pericolosissima, è un fucile a due canne, che ogni volta che spara per colpire l'obiettivo, inevitabilmente ci manda indietro un colpo a noi e ci colpisce a noi, perché è impossibile e ci vuole una grande abilità per riuscire a centrare il bersaglio là, sfuggendo al colpo di rinculo, no? Darwin è stato uno dei primi che è stato in grado di farlo, perché Darwin ha fatto esattamente un'operazione del genere. È riuscito a descrivere, a togliere ogni illusione di sensatezza, di teleologia, di finalità al processo della storia della vita sulla Terra, ma usando esattamente quel... E voi vedete che non è stato il primo a introdurre l'idea di evoluzione. Lamarck c'era per lui, ma Lamarck è stato beccato in pieno dal backlash, dal colpo di rimbalzo, perché ha formulato una teoria della evoluzione finalistica tanto quanto le teorie religiose o, diciamo, creazioniste. Io credo che qualunque discorso sul linguaggio che non sia calato dentro a questo quadro concettuale è un discorso che può anche essere affascinante, intelligente, fatto bene, eccetera, eccetera. Ma poi naturalmente ci sono i pensatori che non hanno formulato teorie, diciamo, sul linguaggio esplicitamente in termini darwiniani, ma il cui punto di vista è compatibile con quello darwiniano, e altri invece che non è compatibile. Tra i primi, si sarà capito, insomma, tra i primi io penso ci sia Foucault principalmente, a gennaio vi dirò delle cose anche su questa, che è una roba che nessuno ha indagato sinora, cioè i rapporti tra i punti di vista foucaultiani e quelli evoluzionistici. Però secondo me è un tema rilevante, insomma, perché esattamente Foucault ha fatto una battaglia analoga a quella che ha fatto Darwin un secolo prima, 80 anni prima, eccetera, contro il finalismo e addirittura però Foucault l'ha fatta su un terreno ancora più scivoloso, ancora più difficile di quello di Darwin, perché l'ha fatta addirittura nelle scienze umane, cioè ha tentato di far vedere come sono i processi storici che neanche essi hanno né una finalità, né un senso, né una sensatezza, e che sono soltanto le costruzioni linguistiche successive che l'uomo, diciamo, gli fa, che sembrano dare un senso ai processi storici, la formazione dello Stato, la formazione il passaggio dal Medioevo all'età moderna, e invece sono tutti quanti fenomeni che hanno spiegazioni, cioè Foucault si sforza di dare spiegazioni in termini che io non so altro definire se non come darwinistici, cioè proprio è l'evoluzione naturale, lui tenta di costruire. È molto più complicato, evidentemente, nel campo delle scienze dell'uomo, cioè degli eventi della storia umana, costruire una. Diciamo, è stato difficile anche nel caso di Darwin costruirli per le scienze naturali, ma insomma, diciamo, da un certo punto di vista è più semplice per diciamo, le scienze naturali, perché obiettivamente l'uomo non è altro che una piccola increspatura nel grande panorama della storia della vita sulla Terra, quindi cioè dire, no, è relativamente semplice farne a meno, mentre è più difficile fare a meno dell'uomo, fare a meno del soggetto, fare a meno della finalità, fare a meno di tutte le fantasticherie che l'uomo ha concepito su se stesso. Sono un soggetto, sono un essere che ha un fine, sono un grande costruttore di significato, eccetera, eccetera, in realtà in gran parte nella nostra testa, perché cioè, l'uomo è parassitario anche in questo. Cioè parassita non solo le cose della natura, ma le stesse cose che fa lui, cioè che fa delle cose totalmente insensate, che hanno una storia automatica, no, ma insomma che prescinde largamente dalla sua volontà, poi arriva lui e ci mette il cappellino e dice, ah cazzo, abbiamo fatto lo Stato, ragazzi, arriva Hobbes e dice, ma lo Stato deriva perché c'era il bellum omnium contra omnes, e c'era la cosa, e poi però io ho fatto il contratto sociale, Rousseau, tutte queste, non ci sono cristi, cioè ogni volta che l'uomo ha tentato di dare una teoria della spiegazione ha fatto un'opera di mistificazione colossale, perché ha sovrapposto a dei fenomeni che si sono sviluppati largamente indipendentemente dalla sua decisione, dalla sua volontà e dal suo quadro, gli mette sopra un bel quadro. E allora forse dovrei aggiungere un terzo, come dire, principio che credo di aver avuto sino da quando ero piccolo, anche prima di Leonardo Foucault, insomma, e cioè che insomma, che bisogna buttare a mare, bisogna decostruire, bisogna criticare e rifiutare o comunque verificare nel modo più rigoroso possibile la fondatezza delle storie che noi raccontiamo su noi stessi. Perché questo è il primo vero compito di ogni pensiero che meriti questo nome, che possa essere. Cioè non c'è un pensiero, non c'è realmente pensiero, se non c'è la messa in discussione del significato tradizionale, del senso tradizionale che la superfettazione linguistica, la ipercostruzione linguistica su di un fenomeno ha dato. Sempre con... è un po' articolata questa metafora del fucile con la doppia canna, però è la prima che mi è venuta, se ne trovate una migliore. Cioè, la cosa importante è che ci spieghi bene che ogni produzione linguistica ha una sorta di effetto collaterale che rimbalza sul, diciamo, soggetto. Nel pensiero moderno, come ci spiegò Foucault, diciamo, l'uomo è tale perché è insieme soggetto e oggetto di conoscenza, e così esattamente è per questo genere di cose. Tutto questo discorso sta dentro a questo quadro. Facciamo la pausa, ragazzi, se no giustamente siete morti.